Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti a questa nuova trasmissione di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Il menù della puntata, prima un'intervista con Guido De Maria, a seguire continuiamo la lettura della favola rodariana con lo scrittore Massimo Vitali, Marinette in fuga, e poi passiamo in finale a parlare di Nero Vita, ultima produzione di Elettra Trambulis, interpellata da Rachele Copparoni. Cominciamo allora con questa intervista di Morena Moretti con Guido De Maria, nota figura, un pilastro, una figura portante dell'animazione italiana, che è cominciato con le sue vignette umoristiche per poi diventare un protagonista, per esempio, di Eroi del Carosello, che hanno colorato la vita di tanti allora bambini, per essere poi dei propugnatori dei mitici Gulp o Super Gulp a seguire, capolavoro in fumetti per la TV italiana. Guido De Maria, tu, oltre a fondare una casa di produzione pubblicitaria all'inizio degli anni 60, prima però sei stato un vignettista, cosiddetto vignettista, anche per una rivista nota che era Epoca. Come è iniziato questo percorso? Il mio percorso è stato che io, dunque, già al liceo cominciavo a disegnare per il giornale di classe, capito? Per cui già quando avevo 16-17 anni io ricominciavo, imitando ovviamente Iacovitti, facevo dei disegnini, delle cose, anche un primo fumetto su un giornale di classe. Io allora ero al liceo classico Minghetti a Bologna. Vignette che i testi? No, più che niente, era proprio una storielline, una storia fumetti, capito? Mi ricordo che era una storia ambientata in antica Roma, dove c'era un centurione che tornava dalla Gallia, portava delle notizie a Cesare. Poi dopo non è andato più avanti questa cosa, però questa per tre puntate fece questa storia e poi ovviamente altri disegni. Questo fu, diciamo così, il primo mio inizio col disegno, anche perché mi accorsi che io, che venivo un pochino dalla montagna, sono nato là a Mocogno, che è un paesino in modenese, così con l'impatto con la città e con diciamo così la vita molto più agitata rispetto a quella di un paese, mi metteva sempre un pochino così in difficoltà, era abbastanza timido, e quindi anche nei rapporti con l'elemento femminile, che quando sai 15, 16, 17, 18, certo, a rivestire un certo interesse, capito? Io ero sempre così tenuto un pochino, facevo tappezzeria nelle festine in casa, capito? Mi mettevo in un angolo, guardavo gli altri ballare, eccetera, eccetera, insomma. E così mi... Però Guido, Bologna ti ha portato fortuna, perché poi forse è qui che hai conosciuto Enzo Biagi, perché come sei arrivato a Epoca? No, Enzo Biagi è stata una storia molto più semplice. Io allora cominciai a mandare i miei primi disegni, ed era quando io avevo già cominciato l'università, ero già, avevo 18-19 anni, cominciavo a fare queste vignette, e quindi andai a Epoca, a Cena di Epoca, e chiede di parlare con Enzo Biagi. Enzo Biagi fu gentilissimo, anzi mi ricordo che mi accolse e mi chiese cosa facevo. Io, Cena di Biagi, disse: sento dottore. Lui disse: non sono dottore. Mi piacque moltissimo questo giovane direttore, che non voleva essere chiamato dottore perché in effetti non si era laureato. Di lauree poi ne ebbe tante dopo. Erano gli anni 50? Erano gli anni 50 e mi ricordo che feci vedere i miei disegni, e una vignetta lo colpì in maniera particolare. Era un momento in cui c'era una specie di disgelo, un pochino si tentava di tra America, Russia, tra Europa, così di avere un rapporto un pochino meno conflittuale. Mi ricordo che c'era una vignettina dove c'erano due fidanzatini russi che stanno facendo un picnic sull'erba. Ovviamente è un picnic da poveri, perché per me i russi erano poveri, quindi c'era la tovaglia stesa sull'erba, un poche cose, un po' pezzettino di formaggio, un pezzettino di pane, e questi due fidanzatini guardavano con affetto, capito, una teoria di formichine che dall'erba saliva sulla tovaglia prendeva da alcune briciole e poi riusciva, gli donava sull'erba. E questi due fidanzatine guardavano queste formichine e lui diceva a lei: lasciamo pure che mangino, Natascia, sono formiche rosse. C'era già una specie di disgelo. Quindi tu hai iniziato come vignettista, nel senso, poi facevi delle vignette umoristiche. Solo come vignettista umoristico, capito? Sì, è vero, sì, che sì. Piace, mi dice, ma lei cosa fa? Dico, ma io faccio, sono scritto a matematica e fisica. Ah sì, benissimo, allora facciamo una cosa, io le pubblico disegni in funzione degli esami che lei dà all'università. Mi sentì perso, come dico qua, non pubblico più niente. Perché invece è stato un incentivo, immagino. Ah sì, incentivo, no, no, incentivo per modo di dire, perché poi ho fatto 9 anni all'università, ma non mi sono lavorato per fortuna, e ho continuato a fare il disattore e poi tante altre cose. Se avessi dato tutti gli esami che ho detto a Biagi di aver dato per vedere pubblicati i miei disegni su Epoca, io oggi avrei 4 lauree, capito, 5 master, qualche pubblicazione importante e probabilmente anche un approfondimento sul dialetto bergamasco, che è uno dei più difficili del mondo, capito? Per pubblicare andavo a dire, oggi questo mese ho fatto 3 esami. Alla fine, quando lui aveva capito che più di tanti esami non poteva avere la facoltà di matematica e fisica, perché facevo matematica e fisica, capito? E la presi a ridere e continuavano a pubblicare i miei disegni. Notte prima degli esami, la matematica non sarà mai mio mestiere. Gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo, un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore. Con Enzo Biagi, dopo il successo di Gruppe Super Gruppe, addirittura portai in televisione con lui, per lui, la storia d'Italia fumetti. Guido, tu hai fondato una casa di produzione pubblicitaria con degli amici, colleghi, anche questo proprio all'inizio degli anni 60, quindi anche qui eri decisamente giovane, però forse vedevi già una possibilità proprio nel mondo pubblicitario che allora era rappresentato da Carosello, per esempio. Sì, era Carosello. Quindi avevi uno spirito imprenditoriale oltre che di creativo. Io stavo per andare a Milano, a far parte del gruppo del disegnatore riuniti di Casa Morosetti, che riuniva, diciamo così, molti disegnatori, e che Casa Morosetti si impegnava a distribuire a vari giornali, perché io oltre Epoca ho disegnato su Europeo, su Settimo Giorno, su Oggi, su tutti i giornali, capito? Compreso sì. Anche un giornale addirittura sul Saturday Evening Post, penso un po' te, i miei disegni sono finiti anche in America. Ma allora però disegni proprio così da principiante, capito? Facevo molta fatica a disegnare io, perché poi mi riferivo molto allo stile di Morosetti. Comunque succede che io sto per andare a Milano, perché mi rendevo conto che vivere con le vignette non era facile, capito? Perché poi sai, noi non eravamo molto considerati, ci consideravano, mi ricordo che Giorgio Cavallo, che era uno dei grandi vignettisti, diceva: ma ti rendi conto che noi siamo ancora considerati quelli delle cartoline del pubblico? Perché capito? Non, in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, il disattore, l'umorista era considerato moltissimo, noi no, eravamo quelli che facevano queste stupidaggini, queste vignettine, così, che facevano ridere o non ridere. Era proprio una categoria di serie B, non era ancora valutata come... Brava, proprio così, esatto. I Vighi, i Morosetti, i Cavalli, sai quanta gente abbiamo avuto, grandi poeti grandissimi, perché devi pensare che anche Fellini, Cola hanno cominciato come vignettisti, Pippolo e Castellano, che poi dopo si sono fatti largo nella strada del cinema, come peraltro Fellini e Cola, hanno iniziato tutti come vignettisti per il Marco Aurelio o per il Travaso, per cui c'era una strana considerazione. Allora però mi capitò di essere chiamato a far parte di un piccolo gruppo che doveva fare un film pubblicitario. Mi accorsi che la pubblicità invece era molto importante, perché ti permetteva per certi versi di vivere anche abbastanza bene. E così incominciai appunto con la pubblicità, con i caroselli. Infatti i miei primi caroselli furono quelli di portare in una serie di caroselli per la Cera Grey i migliori disegnatori italiani con le loro vignette, questa volta però animate, cioè io animavo le vignette che prima erano presentate come statiche, come ferme, con noi, e facevo anche la battuta fuori campo, le doppiavo, e quindi fu la mia prima esperienza come carosello. Che è stata poi un'invenzione effettiva, perché non c'era ancora niente del genere in TV all'epoca. No, non c'era solamente niente del genere, c'era ovviamente, c'erano già i caroselli a cartone animato. Io la Polfilm a Modena è nata prima della Winterfilm di Bologna, perché la Polfilm è nata nel 57, anzi fonda ancora prima nel 54, e la pubblicità che comincia nel 57 come carosello, e io invece incomincio a lavorare per carosello nel 60-61, con poi nel 64-65 con i caroselli importanti, cioè Salomone Pirata Puccioccone per la Marina Fabbri, i caroselli questa volta non animati, però con il personaggio del vero, cioè con Franco Franchi e Cesi Garcia per la Cera Grey, poi ancora il cartone animato per la Madrina della Chic, insomma tutta una serie legata al mondo di carosello. Tu eri sceneggiatore regista. Io ero sceneggiatore regista e per certi versi anche disegnatore, perché io davo l'idea di come essere il personaggio, poi gente che sapeva disegnare molto meglio di me, che avevo peraltro rubato, si fa per dire rubato, alla Polfilm, perché la Polfilm era un'unità straordinaria di quasi 90 persone guidate da quel grandissimo disegnatore che è stato Paolo Campani, e aveva dato vita a personaggi incredibili, meravigliosi, nella sala del carosello, Totetata, Angelino, mamma, 2000. Le grandi imprese di Angelino, Angelino, ci rifiamo, eh? Ti vuoi cacciare in qualche altro pasticcio? Ma lo sai cosa ti può capitare? E ci vuoi provare lo stesso? Dammi retta, non farlo. Hai combinato, ti sei sporcato tutto il vestitino. Ahimè, anche la nostra trasmissione si confronta con il coronavirus, perché sembra che un ottimo antidoto a questa iattura sia Gianni Rodari. Infatti c'è un gruppo Telegram che esiste, dove può stare audio di storie lette ad alta voce e raccontare la propria situazione ai tempi del coronavirus, in modo da non affrontare la solitudine e la paura. Si tratta di storie al telefono, l'idea mutuata proprio da Gianni Rodari, è venuta chiara, giornalista freelance nonché nostro speaker. Si tratta di una delle forme creative di resistenza a distanza all'isolamento. Ascoltiamo la loro rappresentazione di questo progetto. Per esorcizzare un po' la situazione, ero in chat con i miei amici del mio paese d'origine, perché sono pugliese, anche se vivo a Bologna da 4 anni oramai. Ho scelto di non tornare giù perché nella mia famiglia ci sono persone immunodepresse, quindi non intendo mettere a rischio la loro salute in questo momento. C'è da dire che per la natura del mio lavoro e il modo in cui lo faccio, quindi stando a casa e lavorando principalmente al computer su progetti di comunicazione per i social media, sostanzialmente in ambito culturale e di piccole aziende. Chiaramente in questo momento tutti i piani, i programmi, i festival e le situazioni a cui stavo lavorando stanno saltando, sono stati annullati, sono slittati a causa della quarantena. Quindi un po' la situazione per chi è a casa e lavora da freelance, da precaria, è particolarmente difficile, perché appunto si rischia di rimanere senza reddito per un bel po'. E quindi appunto con i miei amici si pensava al fatto che da una parte non serve che abbattersi, ma è necessario comunque trovare il modo per comunicare quello che sta accadendo ai lavoratori precari, soprattutto nell'ambito culturale, ovvero appunto che si sta rimanendo senza reddito, chiusi in casa, e dall'altra è necessario che le persone capiscano che in questo momento bisogna passare un po' più tempo a casa, per una questione anche di rispetto e di cura nei confronti di chi ha più rischio e più possibilità di ammalarsi. È importante non isolarsi anche ed evitare che la paura prenda il sopravvento, ma appunto che bisognerebbe trovare un modo collettivo, nonostante tutto, per affrontare questo momento. E da questo punto di vista probabilmente la tecnologia ci facilita. I miei due amici, Salvatore e Alessandra, lavorano nel settore dell'accoglienza in alcune cooperative, quindi si occupano di accoglienza ai migranti. Chiaramente anche per loro periodo estremamente complesso, e appunto mentre ci si confrontava su questa questione è venuto fuori lo screenshot di un post su Facebook in cui si parlava di alcune maestre che appunto essendo chiuse le scuole e non avendo possibilità di vedere i propri studenti avevano organizzato un gruppo WhatsApp dove mandavano loro le fiabe della buonanotte. E questa idea ci è sembrata molto carina, però chiaramente non sono soltanto i bambini in questo momento ad avere bisogno di non sentirsi soli, ma siamo un po' tutti e tutte, e quindi abbiamo pensato di utilizzare il tempo libero che ci sta dando la quarantena per forza di cose per mettere su un canale Telegram in cui poter condividere le nostre letture ad alta voce con chiunque insomma avesse voglia di ascoltare, quindi di trascorrere un po' di tempo in casa tranquilli davanti a una tazza di tè, quindi insomma trovare il modo per trascorrere un po' di tempo in casa in serenità ascoltando una lettura e in questo modo avendo comunque in contatto con persone che all'esterno in diverse parti d'Italia sono nella stessa situazione, e quindi appunto condividere magari la passione per la lettura o comunque lo stimolo a leggere qualcosa di nuovo, ascoltare qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo trascorso un'intera nottata al telefono a cercare di confrontarci un po' su quali fossero i metodi da utilizzare, le letture da fare, come iniziare e soprattutto quale nome dare al canale Telegram. Alla fine ci siamo riusciti, ovviamente l'ispirazione è data da Gianni Rodari, quindi il nome del canale è Storie al Telefono. Niente, siamo partiti la mattina dopo con una lettura proprio di Gianni Rodari per inaugurare il canale, e subito dopo ne abbiamo parlato con altre persone che in parte condividono la nostra situazione, in parte potevano appunto condividere questa idea. Ne abbiamo parlato con per esempio Antonia Caruso di Edizioni Minoritarie, che è una piccola casa editrice indipendente di Bologna, con Emanuele Pilia di Editore, che è una piccola casa editrice indipendente di Roma, e poi con tutte le realtà culturali con cui siamo in contatto, Camere d'Aria, il Festival della Zuppa. Nel corso della mattinata di ieri la notizia si è un po' sparsa, quindi abbiamo creato anche un gruppo sempre su Telegram per chi appunto avesse voglia di collaborare come lettore o lettrice. Stamattina, quindi dopo 24 ore, siamo circa a 205 membri sul canale Storie al Telefono. Abbiamo caricato finora 5 letture, ne abbiamo fino alla fine di questa giornata altre 4 in programma. La voce si sta spargendo ed è molto bello che insomma più persone decidano di partecipare. L'idea di fondo è che questo momento è un momento complicato, e il fatto di non poter affrontare la paura collettivamente lo rende ancora più difficile, ma naturalmente è necessario appunto non lasciarsi abbattere e cercare di rispettare le regole della quarantena, soprattutto per non mettere in pericolo le persone più deboli e non gravare su chi fa del proprio meglio per prendersi cura di tutte e tutti negli ospedali di tutto il paese. Il modo principale utilizzato dagli esseri umani da sempre per affrontare le proprie paure è quello di inventare storie, raccontare storie. Ora che non possiamo farlo stando l'una accanto all'altra, magari possiamo utilizzare appunto appunto la tecnologia per sentirci un po' più vicini, uniti e anche un po' più coraggiosi. E dato che la vita normale, quotidiana, non ci dà tutto questo tempo per leggere, magari si può pensare di attingere alle conoscenze, al bagaglio culturale di ciascuno, per non mandare anche il cervello in quarantena, essere invece più ricettivi rispetto agli stimoli e all'ascolto, leggere insieme storie e racconti di autrici e autori di ogni angolo del mondo. Le voci narranti sono le voci di tante persone sparse per tutta Italia che lavorano nell'ambito della cultura, precarie, precari, freelance, partita IVA, che in questo momento a causa della sospensione di tutte le attività del settore culturale sono senza lavoro e senza reddito. L'intento chiaramente è quello di accendere i riflettori sull'importanza del nostro lavoro per la collettività, e vogliamo farlo aiutando in questo momento tutti e tutte a trascorrere serenamente il tempo che è necessario passare in casa. Perciò c'è anche un gruppo logistico in cui si può accedere e inviare il proprio audio, le indicazioni bibliografiche. All'inizio di ogni lettura c'è la possibilità di presentarsi raccontando un po' la propria storia, quindi anche le difficoltà che si stanno attraversando in questo momento. Aggiungo che è tutto assolutamente gratuito e che in questo momento ci sono circa 300 persone che ascoltano le nostre letture, e niente, invito tutti e tutte a raggiungerci sul canale Telegram Storia al Telefono. Arlecchino, Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in Libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo 10. Come fu che Pulcinella inventò la mozzarella? Signore e signori, fatevi avanti, più gente entra, più siete in tanti. Donne, ragazzi, gendarmi, pompieri, maniscalchi e parrucchieri, presidenti, gelatai, vetturini, spazzini e notai. Correte a vedere la grande attrazione, la formidabile invenzione. Non sono venuto su questo mercato per vendere il fumo affumicato. Non sono venuto a questa fiera per vendere i buchi del groviera. Il mio nome è Pulcinella e ho inventato la mozzarella. Così, lontano da Teledomando e dalle grinfie del Sor Fernando, Pulcinella, napoletano, sulle piazze fa il ciarlatano. Molti affari non ne combina, perché pensa sempre a Colombina. Guadagna appena qualche quattrino, perché pensa sempre ad Arlecchino. Pensa agli amici con cui fuggì. Ah, se anche loro fossero qui. Stamattina, l'avete udito, è giunto al mercato di Mai Sentito. Ad ascoltarlo corre la gente, si diverte, ma non compra niente. Da questa parte, signori e signore, son Pulcinella, il grande inventore. Per consolare i poveretti ho inventato gli spaghetti. Per rallegrare a tutti la vita ho creato la pizza margherita. Olio, farina, pomodoro, nulla vale questo tesoro. Io vi regalo le mie ricette se voi comperate le mie lamette. Ma ad un tratto si sente un vocione. Compro le lame e anche il padrone. Oh San Gennaro, mamma mia, è arrivato Don Malvasia. Questa volta, amico mio, ballerai tu e riderò io. Oh Sor Fernando, favorite, vi servano lame d'acciaio brunite? Senza lame ti farò, a pezzettini piccini picciò. vi serve forse una polverina contro la febbre di cantina? La mia polverina sarà più bella perché sarà polvere di Pulcinella. Così gridando e minacciando si avvicina al sor Fernando, facendosi largo con prepotenza tra la folla che stava in udienza. Pulcinella lì vicino adocchia il somaro d'un contadino, gli fa due carezze, gli balza in groppa, hop, e gli comanda: su bello, galoppa! Ma il somarello, a quanto pare, non è dell'idea di galoppare. Trotta, trotta, amico caro! Ma neanche il trotto piace al somaro. Non gli piace avere sulla schiena quel pezzo di legno che si dimena, e spingendo all'improvviso, pum, lo fa volare in paradiso. Dal paradiso la marionetta sulla terra torna in fretta e, continuando a precipitare, nell'inferno si va a tuffare. In altre parole, diciamo che casca dal suo padrone nella tasca. Tutto per colpa di un asinello senza cuore o senza cervello, che sa scalciare ma non sa quanto vale la libertà. Ma Pulcinella si consola: non è ancora detta l'ultima parola. Sulla tega si nami, e tu dorso per guardare, e tu sola non so vero. Ma se per tutto riesce, e sarà per finestre, e capisce com'è bella, ci tengo le gemella. Piace solamente che amor voi e questa gente si mortifica ogni giorno per amare che godiente. Che non tiene la coscienza e non tiene la rispetta, come fa la figlia sua quando mia sera vittorietta. Sembra che non viene a prezzo, pezze cinga da mattina, quando traffico per me. Cazzo tutte cose, no perché tieno dritto, ma perché se sempre fatto e soltanto per ti spiegare. Buongiorno a tutti, siamo qui con Elettra Stambulis, attrice, docente, scrittrice, ma soprattutto è qui in veste di curatrice di Cartographic, questa nuova collana curata appunto da te e che fa parte di Mesogea Edizioni, questa casa editrice italiana di Messina. Che cos'è Cartographic e perché anche questo nome? Cartographic è l'esito di un lavoro di molti anni, fatto prima col gruppo Inguine, poi con Giuda, e in cui in particolare con Giuda, che è stata una rivista molto avanguardistica, ci interessava interrogare il rapporto tra geografia, che vuol dire letteralmente disegnare il mondo, e il fumetto, che per noi è un altro modo per disegnare il mondo. Quindi Cartographic è una collana, diciamo così, meno avanguardistica di Giuda, però mette insieme dei titoli che in qualche modo vogliono disegnare il mondo, ma in particolare l'area del Mediterraneo. Fanno parte appunto di questa collana tre volumi per ora, che sono Nero Vita di Daria Bogdanska. Che cosa raccontano queste storie? Ci spostiamo un po' dal centro del Mediterraneo, ma è una storia in cui al centro, come protagonista, c'è la stessa Daria, giovane polacca, che si reca in Svezia, il paese